Nel punto più basso della scala, a 12 metri di profondità, si apre a noi un grande ambiente, con pareti e pavimento di roccia tufacea privi di rivestimento. Al di sopra delle nostre teste, invece, una volta a campana quasi interamente rivestita di cocciopesto ci fa da soffitto. Il cocciopesto è un materiale impermeabilizzante ricavato dai fondi dei vasi e delle giare ed era in uso già al tempo dei Romani. Era un rivestimento dai colori rossastri e brunastri. Col naso all'insù guardo le pareti impermeabili e capisco di essere dentro un'antica cisterna per la raccolta dell'acqua piovana, come venerano in tutti i palazzi signorili. La volta della cisterna è collegata al piano stradale con due ristrette e profonde cavità verticali. Da qui si calavano corde e recipienti e con le carrucole si tirava sull'acqua a secchi. Non c'era ad Andria, almeno fino ai primi del 1900, un bene più prezioso dell'acqua. Neanche una goccia doveva andare sprecata, dice Annina, e quando pioveva era una festa. Si raccoglieva l'acqua dalle strade basolate di pietra oppure dai tetti spioventi e l'acqua confluiva nelle cisterne delle case, che spesso erano comuni. Alla fine dell'Ottocento ad Andria l'acqua era considerata un bene prezioso e come tale messo in vendita da commercianti dai nomi bizzarri, gli acquaioli. Il volto di Annina si schiude in un sorriso sdentato. La sente ancora la voce grossa dell'acquaiolo e le altre voci di donne intorno che si accalcavano intorno al suo carro e si bagnavano i piedi. In realtà, quando Annina era bambina, l'acqua potabile stava arrivando. Ben presto le cisterne divennero ghiacciaie dove a blocchi si conservava la neve dell'inverno per tenere meglio e più a lungo le conserve. Poi sarebbero arrivati i frigoriferi, ma questa è un'altra storia. Se la parte alta con il suo rivestimento impermeabilizzato di cocciopesto ci parla di acqua, la parte bassa dell'ipogeo, dove alle pareti c'è solo roccia affiorata, ci racconta di un altro utilizzo di questo spazio. Nelle pareti ci sono nicchie, che sembrano fatte apposta per accogliere lanterne. È probabile allora che questo spazio sia stato utilizzato, quando la cisterna non è stata più necessaria, anche come cava per l'estrazione di blocchi di tufo, materiale edile per la costruzione degli edifici. Quest'uso degli andriesi a scavarsi sotto i piedi, a estrarre la pietra e avanzare sottoterra ha origini remotissime ed è continuato fino a tempi recenti. È nel codice genetico di questa città. Di fatto, gran parte degli ambienti sotterranei si sono conservati proprio perché erano vere cave, da cui generazioni e generazioni di andriesi hanno estratto il materiale per costruire le loro case. Poi, una volta estratta la pietra, a disposizione della casa restava questo ambiente, fresco, con una temperatura costante per tutto l'anno. Consentiva a intere famiglie di conservare il cibo, ma non solo. L'aria fredda, proveniente dalle condutture d'aria e dai lucernai, si propagava stemperando l'arsura estiva in tutti gli ambienti, anche quelli dei piani superiori. Insomma, alla fine, restava anche un sistema tutto naturale di condizionamento dell'aria. Ma la storia non sembra finire. Al centro della cava, sotto i nostri piedi, si apre un'ulteriore bocca, a sua volta impermeabilizzata, ma ricolma di terra e materiale di risulta. Quando gli ambienti sotterranei divenivano inutilizzabili, venivano infatti riempiti di scarti di materiali edili, terra e rifiuti domestici di ogni sorta. Chissà quale altro mistero è celato lì sotto. Forse si tratta di una seconda e più profonda cisterna, ma non ci è dato saperlo. Sappiamo con certezza però che in epoca recente in questa cava sono state ritrovate delle grandi botti di legno e in effetti questo è il luogo ideale per la conservazione e l'affinamento del vino. La temperatura è costante, l'ambiente è buio e silenzioso. La botola davanti a noi forse sarà stata una cisterna di raccolta e di fermentazione del mosto, oppure aveva un uso ancora più interessante perché una volta riempita d'acqua aumentava il grado di umidità dell'ambiente. e poteva così garantire al vino, come direbbe un enologo dei giorni nostri, una performance migliore. Thank you.